Attenzione, attenzione Umberto, ascolti per brivido, città di Pinerolo, Torino, chiama, capa, capa. Attenzione break, attenzione Umberto, se mi vai copiando, capa.